Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9, tutti i giovedì dalle 21 alle 22. Prima puntata di Giro di Boa del 2009, e questa sera parleremo dell'emergenza umanitaria in Congo. Annalisa in studio, Alessandra in collegamento dall'AIA. Alessandra, ci sei? Sì, io ci sono. E dovremmo avere in collegamento anche il nostro ospite. Sergio, ci sei? Ci sono, mi sento benissimo. Ciao Sergio, sono Annalisa da Bruxelles, come stai? Benissimo, come state? Bene, grazie. Ancora grazie per essere ancora nostro ospite. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori, sicuramente se lo ricorderanno, che già Sergio è stato nostro ospite in passato qui nei nostri studi e questa sera è in collegamento da Roma in Italia. Sì, ormai Sergio è diventato un affezionato di Giro di Boa, diciamo che è uno degli ospiti storici, vero Sergio? Beh, per me è un piacere e un onore continuare a partecipare alle vostre trasmissioni, anche se non sto più a Bruxelles, ma a Roma. Va bene, allora, come dicevamo prima ai nostri amici radioascoltatori, Sergio è il direttore della comunicazione di Medici Senza Frontiere Italia e l'abbiamo invitato a Giro di Boa per discutere con lui e approfondire il tema della crisi umanitaria in Congo. Dunque, come ben sapranno i nostri amici radioascoltatori, il Congo, nella regione del Kivu, che è una regione appunto del Congo, sono in atto della guerriglia. Questo ha provocato all'incirca da agosto a dicembre lo sfollamento di circa 27.000 persone che hanno attraversato la frontiera tra il Congo e l'Uganda. Giusto per dare un ordine di grandezza, il Kivu è poco più grande del Belgio, dunque potete immaginare cosa vuol dire lo spostamento di 27.000 persone. Inoltre è recentissima la notizia che è scoppiata un'emergenza Ebola nel Congo occidentale. Dunque magari Sergio ci potrei dire qualcosa di più? Hai avuto notizie dei tuoi colleghi che lavorano direttamente in Congo? Sì, su entrambi i fronti, sia sul fronte dell'emergenza umanitaria in Kivu, sia sul fronte dell'Ebola. Ho due amici, uno che è appena rientrato dal Kivu, un altro che invece è partito sull'emergenza Ebola in questo momento. Purtroppo il Congo è un po' un caleidoscopio di varie situazioni di emergenza. L'Ebola è l'ultima in ordine di tempo ad essere esplosa, ma c'è la situazione in Kivu, c'è la situazione nell'Ituri, che è un'altra regione dell'est del Congo. Insomma, è un paese che non ha pace da ormai decenni e in cui si susseguono anche guerre combattute da terzi. Nella guerra in Kivu in questo momento sono presenti anche forze angolane, ovviamente non in maniera ufficiale, sono presenti i ribelli ugandesi dell'Order Resistance Army, per cui molti altri eserciti stanno in questo momento combattendo nella zona del Kivu. Sergio, potresti fornire un po' di background ai nostri radioascoltatori? Quindi hai parlato di Kivu, Ituri, ma che cosa ha causato questi conflitti? Chi sta combattendo sostanzialmente, perché? Sì, diciamo che tutto inizia ormai 10 anni fa, nel 98, con la morte di Mobutu e l'arrivo al potere di Kabila, quindi con un cambio di regime in quello che si chiama lo Zaire e che poi fu ribattezzato in quell'occasione Repubblica Democratica del Congo. Da allora la zona est del Congo, quella confinante con i paesi dei Grandi Laghi, quindi con il Ruanda e con l'Uganda, è stata attraversata direttamente e indirettamente da una guerra civile. La regione è già martoriata dalla fuga delle persone che fuggivano dal genocidio in Ruanda e che si erano rifugiate in Congo, non è mai riuscita a trovare una sua stabilità, anche perché è una regione molto ricca di materie prime, primo fra tutti il coltan, che è un minerale che serve a far funzionare le batterie dei nostri cellulari, sul quale si stanno addensando sempre più interessi non solo di multinazionali ma anche di vari gruppi di mercenari o di trafficanti locali, perché questo fa sì che quella zona lì del Congo sia una zona appetibile da molte forze, da molti interessi. Sergio, se non ricordo male, leggevo in questi giorni che Medici Senza Frontiere è nel Nord Kivu dal 1992, mentre invece è presente in Congo addirittura dal 1981. Dunque sono missioni che durano da parecchio tempo. Sì, questo purtroppo è un po' una cartina di tornasole di quanto sia difficile e persistente una situazione di emergenza permanente in queste zone qui. Il Kivu è una zona di instabilità appunto dal 92, è una zona che ha visto varie ondate di ripresa del conflitto e quest'anno in modo particolare dal mese di agosto 2008 sono ripresi violentissimi combattimenti tra le truppe governative del Congo e le forze ribelli del generale Nkunda. Una precisazione, il generale Nkunda è un ex rifugiato ruandese, per cui ecco un'altra prova di come appunto su questa zona del Congo ci siano interessi dei vari paesi confinanti. Scusa Sergio, tu hai parlato di emergenza permanente, ma un'emergenza non è qualcosa di non permanente? Dovrebbe essere così. Purtroppo in molte zone dell'Africa assistiamo a situazioni di emergenza endemica, emergenze permanenti. Basta pensare anche al Darfur. Il Darfur è un'emergenza umanitaria dal 2003, dalla fine del 2003, sono passati 5 anni e continua a essere un'emergenza umanitaria. Questo perché non si riescono a trovare soluzioni stabili, che non possono essere trovate da un organismo umanitario, da una ONG come Medici Senza Frontiere o da altre organizzazioni per quanto grandi ma che non hanno potere politici. La soluzione, la stabilità deve essere garantita da quella che viene definita la comunità internazionale. Purtroppo il Congo, come il Darfur, sono uno di quegli esempi in cui l'emergenza può durare non solo a qualche mese, ma può durare addirittura decenni. E per quanto riguarda l'attuale crisi in Congo, non c'è stata sostanzialmente nessuna risposta da parte della comunità internazionale, anche se non sbaglio l'Unione Europea aveva parlato di inviare truppe per rafforzare la missione delle Nazioni Unite che è attualmente in Congo, ma mi sembra che alla fine non se ne sia fatto nulla. Sì, la situazione paradossale del Kivu è che in questa regione del Congo è presente il più consistente contingente di caschi blu dell'ONU, quindi la più importante forza militare di pace della comunità internazionale, con circa 27.000 soldati, e questo qui non ha impedito la recrudescenza degli scontri, dei conflitti, non ha impedito la fuga di migliaia di persone, ha impedito le conseguenze di questa ripresa così violenta degli scontri, per cui non, sicuramente la soluzione non è inviare 6.000 militari in più rispetto a 27.000 se 27.000 non sono riusciti a garantire la pace. Tu hai parlato di emergenza permanente, hai citato un altro esempio come il Darfur. Ora, il Congo era una grossa emergenza umanitaria in dicembre. Io quando dico grossa emergenza umanitaria significa che era in tutti i telegiornali, si poteva leggere notizie sul Congo in diversi quotidiani. Nell'ultima settimana il Congo non è stato nominato, credo, neanche una volta nei telegiornali che io ho visto, e sulla carta stampata è stato molto molto difficile trovare delle informazioni. Però, come tu stesso ci hai detto, la crisi umanitaria esiste ancora, è tuttora attuale. La crisi umanitaria è tuttora attuale, cioè continuano a morire le persone in Congo non solo per la guerra ma per le conseguenze, quindi per il fatto di non avere più una casa e dormire in mezzo alla foresta a cielo aperto con temperature molto rigide la notte. Pensiamo soprattutto ai soggetti più vulnerabili, bambini, anziani o donne incinte. Le persone continuano a morire in Congo per l'emergenza umanitaria, ma non se ne parla più. È uscita sui giornali quando faceva comodo, quando la comunità internazionale, la diplomazia sembrava interessata a dare una svolta alla situazione in Congo, ma poi, come troppo spesso accade per molte altre situazioni di emergenza, dopo 2 o 3 giorni la notizia passa di moda e non viene più ripresa né dai telegiornali né dai giornali. Ma una crisi umanitaria passa di moda, però Medici Senza Frontiere non può dimenticarsene. No, questo è il mandato di Medici Senza Frontiere, ma anche di molte altre organizzazioni, cioè quelle di assistere la popolazione civile con o senza la presenza delle telecamere. Di certo c'è che le telecamere aiuterebbero moltissimo, non solo a far parlare di crisi, non solo a mobilitare altre organizzazioni. Una tendenza che si sta consolidando negli ultimi anni è la riduzione di organismi umanitari operativi e in grado di intervenire in situazioni di emergenza. Quindi da una parte la diminuzione della situazione fa sì che ci si renda meno conto che lì c'è una situazione di emergenza, per cui anche le organizzazioni sanitarie non pensano che lì sia necessario intervenire, e dall'altro lato portare alla luce, cioè parlare di una situazione di crisi, impone in un certo senso le parti in conflitto a essere meno cruente, o almeno meno visibilmente cruente, di quanto potrebbero essere se stessero in silenzio. Ma Sergio, che cosa è necessario perché la macchina degli aiuti umanitari si possa muovere? Che cosa è necessario perché la diplomazia, perché la comunità internazionale si possa muovere per una crisi come, di proporzioni come quella del Congo, e perché questo non succede? Ma sicuramente anche la comunità internazionale si muove quando vede sul notiziario della sera che c'è un problema in Congo, perché altrimenti non avrebbero tutto sommato questo interesse a muoversi. Per esercitare pressione sulla comunità internazionale, noi come Medici Senza Frontiere usiamo la comunicazione, usiamo la possibilità di rendere visibile e di martellare su queste crisi. Per farlo però abbiamo bisogno anche dei mezzi di informazione, della sensibilità dei mezzi di informazione. Penso che sia una nota di estremo merito che appunto Radio Alma si sia impegnata e si continua a impegnare su questo tema qui, perché ogni voce conta per poter parlare dell'emergenza umanitaria e per poter creare dell'attenzione. Ci sono delle iniziative particolari che Medici Senza Frontiere ha adottato in quest'ultimo anno che magari vorresti citare? Ne cito due. Una riguarda proprio il Kivu. Abbiamo realizzato un progetto multimediale che si chiama Condizione Critica, è un sito internet dove ci impegniamo per 12 mesi a pubblicare testimonianze dirette di persone che vivono sulla propria pelle la crisi del Kivu, quindi testimonianze di donne, uomini che sono in fuga dal conflitto, testimonianze scritte, video, audio, proprio per non dimenticare, per avere un punto di riferimento, un piccolo riflettore acceso sempre su quella crisi. E un'altra iniziativa che lanceremo a breve sarà un'iniziativa, il nuovo rapporto sulle crisi dimenticate, ovvero una lista delle principali crisi umanitarie e di come i telegiornali di Rai e Mediaset, quindi per chi sta in Italia, hanno seguito, o meglio non hanno seguito, queste crisi umanitarie. L'opinione pubblica, come abbiamo visto, dimentica facilmente le crisi umanitarie, soprattutto se si tratta di situazioni ricorrenti. Tu stesso hai citato il Darfur e hai detto che è una crisi che dura da 5 anni. Sembrerebbe dunque che la popolazione del primo e del secondo mondo non faccia molta attenzione a quello che sono le crisi umanitarie che si susseguono l'una all'altra, forse anche perché queste crisi si somigliano le una alle altre e ci si confonde. Esiste però, immagino, una strategia per presentare queste crisi al pubblico, per cercare ogni volta di bucare lo schermo, perché altrimenti come fate voi a Medici Senza Frontiere? Questo sì, ogni volta cerchiamo di capire qual è la formula migliore per innanzitutto colpire l'interesse dei giornalisti per far parlare di una crisi e poi per arrivare al pubblico. Che da dire purtroppo che il pubblico segue delle mode, segue delle tendenze, per cui il pubblico magari si mobilita a Capodanno per quello che sta succedendo a Gaza, ma nessuno dice una parola sul Congo. Il pubblico scende in piazza per 3 milioni in piazza per quello che succede, che succedeva in Iraq, nessuno è mai sceso in piazza per quello che succedeva in Darfur. Per cui purtroppo anche il pubblico segue le mode di quelle che sono le crisi più mediatizzate, le crisi che fanno più di moda, per cui quando va di moda manifestare per la pace in Iraq tutti si mobilitano, però se non va di moda il Congo, se non va di moda la Cecenia, se non va di moda la Colombia, o se le persone non ritengono che siano crisi che vadano di moda, a quel punto è anche difficile far capire l'entità della crisi. Sergio, un esempio, nei giorni a ridosso di Natale 500 civili sono uccisi in Congo. In quei giorni lì, erano i primi giorni dell'intervento italiano a Gaza e non si era arrivati a 100 morti civili. Ovviamente tutti abbiamo visto sui giornali quello che sta accadendo a Gaza e continuiamo a vederlo in questo momento ed è importante. Nessuno ha visto sui giornali quello che sta succedendo in Congo. Quindi l'Africa in generale, tutte le varie emergenze in Africa che hai ricordato sembrano essere, ancora per usare la terminologia che tu hai usato, molto meno di moda o sempre non di moda rispetto ad altre crisi o altre situazioni come appunto l'Iraq o Gaza. Sì, purtroppo sono di moda per l'opinione pubblica, ma anche per chi fa opinione, stenta a ricordare qualunque cantante che abbia lanciato un appello per un'emergenza nel continente africano. Dall'altro lato, se il modello deve essere quello di visite spot di star hollywoodiane in Darfur che attraggono l'attenzione solo su loro stesse e non tanto su lei, credo che a quel punto forse è meglio che queste persone facciano il proprio lavoro e il lavoro di attori. Purtroppo sì, c'è un dato di fatto, quando va di moda una cosa riuscire a partire di un'altra, a far emergere un'altra situazione all'attenzione del pubblico, non ci se la fa. È come andare a un supermercato, c'è il prodotto di successo, il prodotto che magari è più buono, da di più ma costa di meno, che la gente non si compra. Le crisi umanitarie dunque restano tali anche quando i riflettori dei media si spengono. Tu prima citavi il rapporto delle crisi dimenticate. Ci puoi dare una cifra? Quante sono o quanti milioni di abitanti coinvolgono? Ma se pensiamo appunto al Congo, nel Congo ci sono in presenza 3 milioni di rifugiati, intendo, al Congo, cioè più o meno, poco meno del numero degli abitanti di una città come Roma, che è impressionante. Se pensiamo al Darfur, sfollati all'interno del Darfur sono più di 2 milioni. Per cui sono cifre che è anche difficilmente immaginabile. E se andiamo a vedere per esempio a quanto è stato seguito il Darfur dai mezzi di informazione italiani, dalle televisioni italiane nel 2007, il dato inquietante che emerge è che si è parlato di Darfur solo quando Angelina Jolie o George Clooney ne parlavano. Siamo andati a fare un'analisi qualitativa di questi servizi e abbiamo scoperto che la maggior parte dei servizi è sull'attore George Clooney e non sulla crisi umanitaria. Ma dunque, secondo te, non è servito che George Clooney è nato in Darfur per la causa specifica del Darfur, al di là della pubblicità indiretta o diretta, come la si vuol chiamare, che l'attore ha avuto grazie a questa azione? No, diciamo, purtroppo la storia di esperienze di questo tipo ne è piena e non hanno mai risolto nulla. Pensiamo alla canzone che tutti ricorderemo, We Are The World, all'impegno di tutte le stelle della musica americana, da Bruce Springsteen a Michael Jackson a Bob Dylan, invece non hanno ottenuto nulla nonostante la bontà dell'azione. La stessa cosa vale per George Clooney e Angelina Jolie che vanno in Darfur, ottimi servizi di copertina, ottimi passaggi ai telegiornali, richieste anche nobili, ma il risultato sta nei fatti, c'è una vetrina, punto e basta. Tu citavi il rapporto delle crisi dimenticate, ci puoi fare qualche nome giusto per così a beneficio di inventati, come potremmo dire, per vedere se effettivamente sono proprio dimenticate da tutti queste crisi o magari la redazione di Giro di Boa ne conosce e gli ascoltatori di Giro di Boa ne conoscono qualcuna? Allora, ce n'è una che sicuramente in un modo o nell'altro tutti conosciamo, che è la Somalia. O se altro, sono una giornalista italiana, il suo cameraman Ilaria Alpi e Miran Rovati furono uccisi durante la guerra civile, un paese in cui non esiste uno Stato, in cui non esiste la comunità internazionale, un paese in cui gli operatori umanitari, chi lavora lì per soccorrere la popolazione, è costantemente sotto tiro. Ogni settimana leggiamo, diciamo, noi addetti ai lavori, notizie di personale del Programma Alimentare Mondiale o di altre organizzazioni uccise. In gennaio dell'anno scorso 3 nostri operatori sono stati uccisi da un'autobomba. Per cui la Somalia è sicuramente al primo posto come emergenza umanitaria, come alto prezzo pagato dagli operatori umanitari per continuare a lavorare lì e come disinteresse dell'informazione. E poi andiamo avanti con altre situazioni, con la Colombia, con il Nord Kivu per esempio. Insomma, ce n'è un po' purtroppo per tutti i gusti, ma ci sono anche crisi umanitarie che non sono paesi, sono malattie come la tubercolosi, che ogni anno uccide 2 milioni di persone e che al momento l'unico strumento diagnostico utilizzabile nei paesi del terzo mondo è un test diagnostico che risale al 1882. Tu ora sei direttore della comunicazione di Medici Senza Frontiere Italia, come ricordavamo prima in apertura, per cui immagino che viaggerai forse un po' meno nelle zone di crisi, ma comunque continui a visitare zone di crisi, vero? Sì, sono stato l'anno scorso in Kenya, quando sono scoppiate le violenze etniche subito dopo le elezioni, con i team d'urgenza che stavano andando nelle zone più, diciamo, più calde, più violente, dove insomma si poteva assistere a degli episodi di una violenza che uno non si sarebbe neanche immaginato. Sì, per cui no, continuo a farlo anche se con una frequenza minore. Continui a farlo con una frequenza minore. La mia domanda era: è possibile stancarsi emotivamente di fare l'operatore umanitario? Bisogna riconoscere, cioè, è faticoso, è difficile, ma anche estremamente potente, affascinante come esperienza. Bisogna riconoscere, è una cosa molto difficile, quando arriva il momento di fare un passo indietro, perché è un'esperienza che può bruciare. Ho visto persone bruciate da questo tipo di esperienza e posso assicurare che non ne vale la pena, per cui bisogna stare molto attenti a capire quando è il momento in cui la propria testa, il proprio fisico hanno dato quello che potevano dare, ed è bene tornare a un contatto più stabile con una vita più normale, altrimenti si rischia di diventare, di essere colpiti come dalla sindrome dei veterani di guerra, non si riesce più a farla ad altro se non di quella crisi o di quell'altra guerra, non si riesce a star bene se non con le persone che hanno vissuto quello stesso tipo di esperienza, si diventa degli estranei dal resto del mondo. Dunque è importante capire quando bisogna staccare la spina. Sì, è importante capire quando bisogna staccare la spina. È importante saper sempre ascoltare le proprie paure, perché non c'è cosa peggiore in una situazione di emergenza che fare gli spavaldi o perdere il contatto con la percezione del pericolo, e saper anche non prendersi sul serio. Uno dei rischi di chi decide di fare questo mestiere è prendersi troppo sul serio, mentre autoironia sono un ottimo antidoto a mantenersi, insomma, persone più o meno normali. Sergio, vorrei ritornare al tuo ruolo come direttore della comunicazione appunto in Italia e sul lavoro che Medici Senza Frontiere fa per attirare, per far concentrare l'attenzione dei media su le varie emergenze umanitarie passate di moda o dimenticate. Nel caso specifico dell'Italia, puoi parlarci di qualche iniziativa, qualche attività con i media italiani in particolare? Sì, assolutamente sì. Quest'anno abbiamo prodotto una mostra fotografica sulla Colombia che ha vinto anche il World Press Photo, per cui questo qui ci ha permesso di dare visibilità a una crisi che non usciva mai fuori dai riflettori. Abbiamo realizzato un libro molto importante, siamo riusciti a coinvolgere 9 scrittori italiani, tra cui Alessandro Baricco, Stefano Benni, Domenico Starnone, Paolo Giordano, ed abbiamo portato in 9 contesti di crisi. Ognuno di loro ha scritto un racconto o basato su emozioni che quell'esperienza aveva dato, o su più stile racconto di viaggio, o un racconto di invenzione, e insieme sono stati raccolti in un volume che dal titolo Mondi al limite, 9 scrittori per Medici Senza Frontiere edito da Feltrinelli. Ecco, questa forse è l'attività più importante, più gratificante che siamo riusciti a mettere in piedi negli ultimi 6 mesi. Com'è il pubblico italiano rispetto a Medici Senza Frontiere? Tu hai vissuto per un periodo a Bruxelles, dunque hai, diciamo, vissuto Medici Senza Frontiere dal punto di vista dal belga, e ora sei tornato in Italia. È un pubblico più affezionato, mi viene da dire, quello italiano rispetto a quello belga, oppure no? Ma è un pubblico sicuramente che si affeziona molto e che segue molto da vicino, una volta che entra in contatto con Medici Senza Frontiere, le tematiche che portiamo avanti. Di sicuro abbiamo moltissime fette di pubblico che ancora dobbiamo andare a intercettare, perché sono sicuro che Medici Senza Frontiere in Italia abbia ancora un grande potenziale non espresso, per cui sta a noi trovare le modalità, le forme, gli strumenti, anche i linguaggi per riuscire a raggiungere queste persone, però sicuramente su ogni emergenza, anche quelle di cui si parla poco. Quest'anno è un anno particolarmente purtroppo ricco di emergenze, sentiamo sempre il sostegno, la vicinanza non solo dei nostri sostenitori ma delle persone che si sentono vicine a noi anche nei momenti più difficili, anche quando succedono incidenti gravi ai nostri team sul terreno. Tu parli di modalità e di linguaggio, ma io mi domando come fa Medici Senza Frontiere a sempre ad essere presente, ad essere in prima linea, ad essere in in Congo per esempio, come dicevo prima, dal 1981, e nel Kivu dal 1992. Cioè, significa che avete un bacino di benefattori, se posso chiamarli così, enorme. Sì, significa due cose, che abbiamo sicuramente... Perché scusami, voi siete un'organizzazione non governativa, cioè significa che voi non avete nessun aiuto che viene dallo Stato? Abbiamo l'85% dei fondi a livello internazionale che proviene da donatori privati, quindi da privati cittadini, poi circa un altro 10% che proviene da piccole aziende che rientrano una sorta di lista di aziende eticamente compatibili con Medici Senza Frontiere, di cui ovviamente non fanno parte tutte le industrie coinvolte nella fila estrattifere, nelle armi, nell'automobilismo, eccetera, eccetera. È una piccola parte da istituzionali come la Comunità Europea, ma parliamo del 3%. Per cui è un'organizzazione che si basa per l'85% su fondi privati, quindi, come dicevate voi, su benefattori. Ma dall'altro lato abbiamo i nostri operatori umanitari, in questo momento sono circa 25.000 tra personale internazionale e personale dei vari paesi in cui operiamo, 25.000 persone a portare avanti i nostri progetti, per cui senza di loro non potremmo essere in questo momento in Kivu, non potremmo essere in questo momento in Iraq, non potremmo essere in questo momento a Gaza. Quanti italiani sono partiti quest'anno? Circa 230 italiani, che è un numero sempre crescente, ma soprattutto c'è una specificità che per me è importante ricordare. La maggior parte degli operatori italiani di Medici Senza Frontiere sono impegnati in contesti di guerra o in contesti di emergenza, dove non solo riescono a fare il loro lavoro in maniera egregia e professionalmente ad altissimi livelli, ma dove sono particolarmente apprezzati anche dai colleghi internazionali e dallo staff locale. Questo è un dato molto importante, non solo come MSF Italia, ma come Medici Senza Frontiere in generale. E Sergio, chi volesse partire con voi, quindi con Medici Senza Frontiere, e mettere la sua esperienza a vostra disposizione, come può farlo, come può fare per partire, per quali profili ricercate? Ah, quali profili? Si chiama Medici Senza Frontiere, ma per noi partono medici, infermieri, personale medico, sanitario di varia natura, ma anche ingegneri, architetti, psicologi, esperti in costruzione o in reti idriche, addirittura meccanici, per cui non c'è bisogno solo di medici. Attraverso il nostro sito internet medicisenzafrontiere.it è possibile vedere quali sono tutti i requisiti a seconda delle varie professionalità richieste e il modulo per poter partire in missione. Tu dicevi che ci sono più di 200 italiani che sono partiti quest'anno, ci puoi dare una stima più o meno, visto che tu citavi diversi profili, ci sono diversi profili medici, sanitari, ma ci sono anche, come dicevi, architetti, ingegneri, eccetera. Qual è più o meno le due aree? Sono 50 in 50 o magari dottori e gli infermieri sono un po' di più rispetto ai cosiddetti, non so, chiamiamoli civili? Sono un po' di più, no? La media è 55% di personale medico sanitario e 45% di personale non medico, che serve appunto di supporto. Facciamo per esempio l'esempio di un ospedale: per un medico, un infermiere, un chirurgo che lavorano in sala operatoria, c'è poi tutta la parte tecnica che deve essere garantita, dall'approvvigionamento di farmaci e apparecchiature mediche, alla fornitura elettrica, allo smantellamento corretto dei rifiuti ospedalieri, all'acqua potabile, al sistema di latrine che impedisca la contaminazione delle acque e tutta una serie di altre attività decisive e importanti per lavorare nelle emergenze. Sergio, ci puoi dire qualcosa per quanto riguarda la cooperazione che Medici Senza Frontiere ha sicuramente instaurato sul campo con altre organizzazioni non governative e con le istituzioni internazionali che operano nei vari teatri di crisi? Sì, normalmente in ogni situazione di emergenza ci sono dei momenti di coordinamento e di confronto con le altre realtà operative in quel posto. Di solito uno dei nostri partner più frequenti è il Comitato Internazionale della Croce Rossa, sono anche delle agenzie dell'ONU che possono essere presenti, ma sicuramente anche, se ci sono, ovviamente le autorità sanitarie del paese, perché sono normalmente le prime ad avere le informazioni più dettagliate sulla distribuzione della popolazione, sui bisogni sanitari della popolazione e anche sulle zone maggiormente colpite dal disastro o con più problemi da un punto di vista medico-sanitario. Per cui normalmente avvengono degli incontri di coordinamento, di scambio di informazioni tra le principali organizzazioni presenti in quel teatro di crisi, ci si scambiano le modalità di intervento, si definiscono delle modalità di intervento per evitare la sovrapposizione e per evitare di lavorare nella stessa zona. Io avevo un'ultima domanda per Sergio. Sai già qual è la tua prossima missione, la tua prossima destinazione, o dipenderà dalla prossima crisi umanitaria o dall'attuale crisi umanitaria? Ma diciamo sono due in preparazione, non legate a emergenze ma legate a situazioni su cui comunicare è estremamente complesso, e sono in ballo con Somalia e con Iraq. Si tratta di vedere appunto le questioni legate alla sicurezza, ma sicuramente sono due situazioni di cui non si parla o non si parla come si dovrebbe. In Iraq sarebbe la prima volta? Sarebbe la prima volta, sì. Beh, allora non mi resta che augurarti in bocca al lupo. E credi, magari ci risentiamo. No, senz'altro, ci mancherebbe. Sergio, grazie mille per essere stato nostro ospite questa sera in collegamento dall'Italia, grazie per aver approfondito con noi questo tema, per averci parlato di Medici Senza Frontiere, dell'importantissimo lavoro che svolgete, un grosso in bocca al lupo dalla redazione di Giro di Boa, buon lavoro e speriamo di riaverti presto nostro ospite. Sono io a ringraziare voi di Giro di Boa per lo spazio che ci avete dato. E io, Sergio, volevo ricordare un'ultima cosa. Potresti ripetere il sito internet di Medici Senza Frontiere? Lo conosciamo, www.medicisenzafrontiere.it. Potresti ricordare ai nostri amici radioascoltatori l'iniziativa Condizione Critica che citavi ad inizio trasmissione, così magari, chissà, questa emergenza in Congo non ritorni di attualità anche per il pubblico. Allora, basta andare sul sito www.condizione-critica.it o semplicemente cercare su Google condizione critica e siamo al primo posto della ricerca. Andatevi a vedere il video che abbiamo pubblicato su condizione critica, perché è un documento unico. Va bene Sergio, allora ancora grazie mille e alla prossima. Grazie a voi per tutto quello che fate. Grazie Sergio, a presto. Buon lavoro. Facciamo ora una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Mancano 6 minuti alla chiusura. Questa sera abbiamo approfondito l'emergenza umanitaria in Congo, abbiamo parlato del ruolo, dell'importantissimo ruolo che svolge Medici Senza Frontiere in Africa, in queste regioni di crisi. Lo abbiamo fatto quindi con Sergio Cecchini, direttore della comunicazione per Medici Senza Frontiere in Italia. Siamo in chiusura, come dicevo, vorrei ricordare, cari radioascoltatori, che Radio Alma e Giro di Boa hanno aderito alla campagna Mi illumino di meno, campagna sul risparmio energetico promossa dalla trasmissione di Radio Rai 2 Caterpillar, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30. Questa iniziativa per l'anno 2009, come già nell'anno 2008, ha ottenuto il patrocinio del Parlamento europeo grazie all'interessamento di una serie di parlamentari, tra cui Monica Frassoni, Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Luisa Morgantini, Luigi Cocilovo e Mario Mauro, questa campagna si è aperta il 12 gennaio e si concluderà il 13 febbraio con lo spegnimento di edifici, monumenti storici e istituzioni. La novità di quest'anno è che, oltre allo spegnimento del Parlamento europeo, si cercherà di avere lo spegnimento di diversi parlamenti nazionali, e un'altra novità è rappresentata dal fatto che le radio europee sono state coinvolte in questa iniziativa, tra cui appunto anche Radio Alma. Sì, sono stati quindi questo silenzio energetico ha coinvolto non soltanto città e piazze in Italia, ma anche città europee, Roberto. Come grazie ai nostri amici di Caterpillar, si può dire. I nostri amici di Caterpillar, con cui saremo in collegamento giovedì 29 gennaio. Giovedì 29 gennaio approfondiremo questa iniziativa e lo faremo con un intervento dell'onorevole Monica Frassoni, che è co-presidente del gruppo dei Verdi al Parlamento europeo, e lo faremo in diretta con un collegamento con la redazione di Caterpillar, con gli amici di Caterpillar che hanno appunto lanciato questa iniziativa. Sul sito di questa campagna è possibile aderire all'iniziativa, precisando quali iniziative concrete si metteranno in atto nel corso della giornata, in modo che le iniziative più interessanti e innovative possano servire da esempio e possano essere riprodotte. Quindi i conduttori di Caterpillar, Massimo e Filippo, sostanzialmente chiederanno ai radioascoltatori di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili il 13 febbraio a partire dalle ore 18. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito web della campagna milluminodimeno.blog.rai.it oppure sul sito di Caterpillar www.caterpillar.rai.it. Quindi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, continueremo a parlarne anche la settimana prossima e ovviamente giovedì. Anche Alessandra spegnerà le luci a casa, non soltanto i monumenti vanno spente, anche tutte le luci in casa, quindi non cucinate, non fate pizze, non accendete il forno, spegnete anche il frigorifero. E spegnete pure la televisione, cosa importantissima. Beh, quello lo faccio già di mio. La televisione va spenta con il pulsante direttamente, non semplicemente col telecomando, perché se c'è la lucina rossa vuol dire che il televisore è ancora acceso. E sta consumando corrente. Brava Alessandra per il consiglio, e soprattutto non fate ricerche con Google, perché a quanto pare un fisico di Harvard avrebbe dimostrato che consuma anche quello a livello planetario. Ci mancano davvero pochi secondi perché cediamo la linea ai nostri amici greci. Alessandra, vogliamo ricordare quale sarà il tema della settimana prossima in chiusura? Ovviamente sarà l'inaugurazione della presidenza di Obama degli Stati Uniti. Dunque diamo appuntamento ai nostri amici radioascoltatori giovedì prossimo, come sempre dalle 21 alle 22, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9, con il vostro programma di approfondimento e dibattito Giro di Boa. A risentirci alla settimana prossima, un saluto in studio e un arrivederci, a risentirci settimana prossima, Annalisa e Roberto Giara. Ciao a tutti da Alessandra.